Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Una maxi operazione dei carabinieri dei ROS ha stroncato un traffico di armi ed esplosivi dai Balcani verso l'Italia. 27 le persone indagate nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Udine, che ha interessato anche il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e le Marche. L'accusa per tutti è quella di traffico di armi e di esplosivi. Quello che si domanda un normalissimo cittadino che osserva e segue le notizie incalzanti di questi giorni è dire: ma come fanno questi a procurarsi armi, esplosivi, appoggio logistico per fare questi attentati, visto che sono tutte persone apparentemente indifferenti, inqualificabili, vengono definiti come bravi ragazzi, persone gentili, come sempre accade. Lo stesso accadeva ai nostri tempi, quando improvvisamente scopriva che qualche figlio di genitore eccellente era brigatista, che magari nella sua inappuntabile famiglia, nella sua faccia d'angelo, poteva uscire un pomeriggio e sparare in faccia a uno che nemmeno conosceva, così, e non si capiva come mai, chi gli ha dato le armi, chi gli ha dato l'istruzione, chi gli ha fornito appunto la logistica per farlo. Beh, oggi domandiamoci questa cosa: se questa mattina improvvisamente impazzissi e volessi aderire comunque a quella che è la battaglia che sta infiammando le nostre strade, sarebbe per me difficile trovare un Kalashnikov, qualcuno che me lo venda, qualcuno che me lo dia. Me lo potrei mettere sotto il cappotto e andare, non so, all'uscita della metropolitana di Ottaviano, che prendo tutti i giorni, e fare una strage. Chi me lo impedirebbe? Beh, oggi di questo parleremo. 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Riprendo il filo di quello che ho detto pochi istanti fa e invito gli ascoltatori a darmi un loro contributo, contributo di esperienza personale, contributo di domande e di riflessioni. 800 24 00 24 è il numero verde. Mettiamo che io questa mattina decidessi di prendere parte alla guerra contro l'Occidente. Mi faccio anch'io guerriero e quindi decido di fare una strage. Quindi mi serve un'arma, basilare, un'arma. Per trovare un'arma cosa devo fare? Boh, non saprei a chi chiedono, la chiedo certo a Intonti, a Rocchetti, ai miei colleghi. Devo trovare qualcuno che bene o male sia nell'ambiente intermedio del coattume. Potrebbe essere un carrozziere che traffica macchine rubate, l'amico dell'amico che tutti sanno, a cui si chiede il favore, ti serve un pezzo, vuoi pagarlo meno di quanto costi nuovo, oppure quello che sai che gira per locali e spaccia ai VIP. Insomma, l'amico in odore di coattume si trova sempre, c'è sempre. Cosa dovrei chiedergli, quanto spenderei? Gianandrea Gagliani, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Giornalista, dirige il mensile web analisidifesa.it, si occupa di analisi strategiche e storiche e studio dei conflitti internazionali, collaboratore del Sole 24 Ore. Partiamo da questo punto di partenza. Sì, il privato cittadino decide di entrare nella guerra contro l'Occidente. Cosa potrebbe fare? Beh, allora diciamo che se vuoi entrare in qualche cellula terroristica devi comunque aderire a dei gruppi, e sono questi gruppi a procurarti poi le armi al momento in cui loro decidono che tu puoi diventare un operativo. Potrei fare anche il cane sciolto, se come accade nell'ISIS. Se fai il cane sciolto ti puoi muovere nei canali della malavita, trovare armi non è difficilissimo. Se hai un migliaio di euro da spendere attraverso qualche intermediario puoi trovargli una pistola tranquillamente. Per un fucile d'assalto, beh, in Italia è più difficile trovarli se non sei già dentro questi canali. Ricordiamoci che queste armi da guerra noi le abbiamo già viste impiegare dalla malavita in più occasioni, in particolare il Kalashnikov, che è un'arma da guerra che ha un potere di perforazione anche molto importante, è stato usato per molto tempo dalle bande che assaltavano i furgoni portavalori, che hanno una leggera blindatura che non resisteva però alle raffiche di Kalashnikov. Era un'arma anche che faceva da deterrente. La guardia giurata dentro al furgone, vedendo quell'arma da guerra, comunque apriva. Un'arma da 50 anni simbolica. In tutti i loghi di tutte le organizzazioni rivoluzionarie, terroristiche, c'è sempre un Kalashnikov brandito. Oltre 100 milioni di prodotti, è molto affidabile, robusta. Soprattutto c'è un vastissimo surplus di quest'arma. Ci sono dei rapporti francesi che sono stati resi noti dopo l'attacco a Charlie Hebdo, perché era l'arma usata dai fratelli Coissy, e che ha raccontato come, ad esempio, sul mercato francese, che poi è la stessa cosa per il mercato europeo, le armi che di questo tipo provengono dai Balcani. E noi in Italia abbiamo avuto, dopo, negli anni 90, quando cade il regime albanese a Tirana, che aveva praticamente 6 fucili da guerra per ogni suo abitante. Che fine hanno fatto? Sono quasi tutti finiti, in buona parte finiti sul mercato libero, hanno in parte alimentato i ribelli kosovari in quegli anni, ma anche al mercato nero pugliese si potevano comprare con 50.000 lire, mi raccontavano a quell'epoca, perché il mercato della malavita era talmente inondato da queste armi che arrivavano dall'Albania insieme agli immigrati clandestini, insieme alla droga. Oggi il traffico balcanico... L'inchiesta che fece Panorama un anno fa viene fuori che la Puglia, sui ritrovamenti degli arsenali, che sono frequentissimi, poi noi vediamo soltanto in televisione il carabiniere che scarrella la pistola stesa sul tavolo, ma ce ne sono notevoli. La Puglia sembra sia la regione a più intenso traffico di armi, non so, forse perché è in contatto con l'Albania. È di fronte al Montenegro, è di fronte all'Albania, è di fronte ai Balcani. E i Balcani sono considerati non solo una delle... Dal Salento, nelle belle giornate, si vede l'Albania. Quest'estate ero in vacanza in Salento, a un certo punto il mio telefono non prendeva più, ma prendeva solo in roaming dalla Grecia. Dell'Aghia Limini praticamente, da Otranto tu vedi l'altra parte. Addirittura appunto avevo il segnale telefonico dall'altra parte. I Balcani però sono un punto interessante non solo per il traffico di armi, ma perché nei Balcani, in Kosovo, in Bosnia, in Albania, c'è un'ampia fetta di islamismo radicato e ci sono molti jihadisti che sono andati a combattere in Siria. Arrivano le prime segnalazioni, me l'aspettavo, abbiamo un pubblico molto attento. Piero, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Piero, sono di Milano. Volevo dire che, come da intuizione immediata anche della vostra signorina del centralino, esiste da 15 anni a Milano un mercatino della domenica che nasce come mercatino di roba usata, in realtà è una grandissima centrale di smistamento di merce rubata e tanto tanto materiale che non si dovrebbe parlare. Mi faccia un esempio, dica quello che sa lei dalla sua esperienza. Lei dice, la mia esperienza, guardi, ma è pieno di polizia lì fuori, lì dentro, adesso si è trasferito in Piazza Le Cuoco, lei può comprare qualunque cosa. Anche un Kalashnikov, per assurdo. Ma guardi, io non sono solito frequentare questo posto, però dalle facce che ci sono... Vabbè, dalle facce non basta, alle facce. No, mi faccio finire, mi scusi. Stavo dicendo che... se io vado a comprare un tavolino usato è un conto, se frequento quotidianamente, sistematicamente questi luoghi, entro a far parte, tra virgolette, di un giro. E quindi sono convinto che con un po' di dovizia, ma neanche troppa, si possa avere qualunque cosa. Quindi lei ha detto, prendendo la mia provocazione all'inizio, ha detto, se io volessi saprei dove cominciare ad andare intanto, certo, per assaggiare io l'area. Io andrei lì, se io volessi comprare l'oggetto della comincia a circolare, capire un po' l'area. Io andrei lì e sono convinto, ne sono straconvinto, che se volessi nel giro di un paio di settimane potrei procurarmi una cosa del genere. No, ovviamente non l'ho mai fatto, non è mio interesse farlo e ci mancherebbe altro, però come me migliaia di persone potrebbero aver fatto questa telefonata che sto facendo io adesso. Mi stanno scrivendo, vergognati Nicoletti, fai una trasmissione per insegnare alle persone come diventare terrorista. Beh, mi sembra tutt'altra cosa quello che stiamo facendo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, senta, io sono d'accordo con l'ultimo che ha chiamato, diciamo, perché tanti anni fa mi capitò di conoscere un mercenario francese che veniva da Marsiglia, era un marsigliese, all'epoca c'era ancora il famoso clan dei marsigliesi, eccetera, fece amicizia tramite un'altra persona e lui ci raccontò, era in vena di racconti, quanto era facile, tant'è vero che il mio amico poi partì. Lui cos'era, reduce dell'Algeria, aveva fatto penso tutte le guerre possibili. Sì, ma non solo lì, anche in Africa. In Africa, beh certo, tutto. Al tempo del Congo, eccetera, sì, eccetera, insomma, era uno che noi eravamo, voglio dire, eravamo sicuri che le sue parole fossero veritiere, perché era ricco di dettagli, eccetera. Ora, poi dopodiché infatti abbiamo la conferma che lui partì, questo mio amico, andò a Marsiglia e si comprò una pistola addirittura col silenziatore. Dopodiché mi disse che anche a Genova, tramite altri suoi rapporti con un giro di amici suoi zingari, eccetera, eccetera, era assolutamente nella città vecchia, tipo via Pre, queste famose pesate di Genova, era assolutamente facile acquistare delle pistole. L'importante era non sembrare uno sbirro, come diceva lui, no? Non sembrare un è quello che ci ha confermato il nostro ospite, che un'arma corta è abbastanza facile trovarla, anche seguendo le tracce empiriche che suggeriscono i nostri ascoltatori. Altra cosa è però avere un armamentario di tipo bellico, capace comunque di avere un maggior potere di impatto. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io chiamo da Bari, per cui sentivo parlare di Puglia, vorrei proprio dare una testimonianza diretta su questa cosa. Io vi posso garantire che qui nei campi dei nostri Rom a Bari e nell'Interland, e quindi suppongo anche in tutta la Puglia, è possibile l'acquisto dei Kalashnikov, e le dico anche il prezzo, 300-400 euro a seconda del campo Rom. Ecco, questa notizia, diciamo, su quale fonte, senza dirmi i nomi, più o meno come l'ha avuta? È un sentito dire da bar, oppure ha certezze che questo possa essere possibile? Ho certezze perché ho due fonti quasi certe. Una è la popolazione locale, qui purtroppo la malavita dilaga, per cui la voce circola, e la seconda è addirittura amici poliziotti che, lavorando in questura, sanno di questa possibilità. La cosa più drammatica è proprio questa, è che nonostante noi sappiamo che esistano queste possibilità, la legge in ogni modo, perché mi dicevano questi amici poliziotti, non può intervenire se non in determinate circostanze. Io penso che sul sospetto di detenzione di armi da guerra sia un po' difficile che non possano intervenire. Ma infatti, però, purtroppo loro non hanno la possibilità di intervenire per fare anche addirittura delle indagini, perché questa è una vox populi. La riportiamo come vox populi. Allora, Gianandrea Gagliani, vediamo da queste prime telefonate che danno comunque il senso di un sentire. Sì. Il sentire nazionale, che sia molta facilità di trovare armi in particolari percorsi. Ecco, questa notizia ultima dell'ascoltatore di Kalashnikov smerciati a 300-400 euro in Puglia. È fuori mercato comunque. È fuori mercato. Cambierebbe le regole del mercato, perché anche in tutta Europa, in particolare in Francia, la valutazione è questa, che i Kalashnikov vengono comprati a 400-450 euro in Kosovo, nei Balcani, lì puoi trovarlo a quella cifra. Nel momento in cui arriva nel nord Europa, a Parigi, a Bruxelles, nei canali, tramite i canali della malavita, viene ricaricato. Sono poi quelli che forniscono anche, a cui si appoggiano anche i terroristi, anche per l'esplosivo militare che viene sempre da quella zona. Ecco, lì il prezzo è salito a 2.000-2.500 euro. La differenza fra 2.000 e 2.500 dipende dalla quantità. Come qualunque prodotto io compri, se compro tre magliette forse mi fanno uno sconto, se ne compro una no. E quindi, ovviamente, se fosse confermato il Kalashnikov, dipende anche dal tipo di arma, perché ci sono tanti Kalashnikov. Il Kalashnikov albanese sono anche quelli cinesi, come i caricatori dei telefonini. Il Kalashnikov albanese è una coppia fatta male del Kalashnikov cinese vecchio e ha un'efficienza molto limitata, si inceppa spesso, costa meno, vale di meno. I fratelli Qassi e altri hanno usato dei Kalashnikov AK-103, impiegati anche dai ribelli in Siria, in Libia, armi ritenute molto affidabili in guerra e quindi ovviamente ancora più affidabili in un contesto non urbano. Non puoi permetterti uno scontro a fuoco che dura pochi minuti e ti si inceppi, quindi vorranno, tra l'altro mi sembra che abbiano problemi di soldi. Esattamente. E l'ultimo dei loro problemi è avere soldi. Non avendo problemi di soldi comprano il meglio che possono trovare. Mi racconti invece di quelli che fanno i cinesi, perché è divertente, mentre i cinesi fanno di tutto, tarocco e costa meno, tu compri un cavetto per caricare il telefonino, non funziona ma costa meno, vale anche per il Kalashnikov? No, i cinesi fanno ottime armi oggi, però in passato smerciavano copie dei prodotti russi, lo fanno anche oggi, ma siamo a un livello di high tech, allora eravamo a livello di ferraglia, che poi paesi poveri come l'Albania, che avevano più un'esigenza di armi legata forse alla sicurezza interna e a creare la sindrome d'assedio nella popolazione, venivano riprodotti con sistemi industriali molto primitivi. Io ricordo, andai in Albania appena caduto il regime e vedere le loro fabbriche di armi era come entrare in una era anche rischioso usarle a un certo punto. No, ma anche solo entrare in questi stabilimenti che sembravano quelli ereditati, non so, in Europa dalla prima rivoluzione industriale, dove anche le condizioni di sicurezza per chi ci lavorava erano assolutamente precarie, insomma. Sentiamo Fabiano. Fabiano, buongiorno. Pronto, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. E niente, a me veniva in mente, anche perché ho guardato un attimino su internet, sì, la reperibilità delle armi da fuoco è piuttosto semplice in strada, diciamo, ma il problema più grave secondo me è la facilità con la quale si può proprio costruire una bomba, un ordigno. basta andare su YouTube per dire, spiegano, ci sono proprio post, ci sono video che spiegano per filo e per segno come fare una bomba rudimentale, e da lì il passo è breve, viene molte bombe, l'Ira usava per esempio mi sembra sia il caso, sì, esistono questi siti diciamo con materiali che si vendono nei negozi di prodotti per l'agricoltura, si trova di tutto, però non è proprio esattamente quello che fanno, mi sembra che usino oggetti molto specializzati. Dipende, ci sono stati... Aspetta Cagliari, fermo un attimo, prego. Questa risposta non dai fra un istante, credo dare la linea velocemente, fra un minuto riprendiamo. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Per la sua capacità di reperire armi e la dimestichezza con contesti di guerra, Carpi 2 anni fa viene contattato da un somalo, Omar Jama, che gli chiede di addestrare delle milizie. Ma qual era la finalità di quella roba lì? Cioè praticamente tu dovevi addestrare alla rovescia delle persone, perché ti ponevano davanti gente che non è vero che non sapeva niente di armi o di guerra e quello che c'era. Erano talmente animali che loro ammazzavano tutti, quindi non riuscivano a vedere se una persona doveva essere ammazzata o meno. Tu sai a chi era collegato? No, non l'ho mai chiesto. E come non ti interessava? 800240024, questa è l'inchiesta che ha fatto Sigfrido Ranucci nella puntata di Report dedicata Finché c'è guerra c'è speranza. Ha sentito alcuni addestratori italiani di ben precisati gruppi terroristici. Poi ci siamo fermati un attimo con Gianandrea Gagliani, che ricordo dirige il mensile web analisidifesa.it, il suo mestiere è proprio occuparsi di analisi storico-strategiche, studiare i conflitti. Sulla domanda ce l'ha fatto l'ascoltatore primo, la differenza fra armi da guerra e armi diciamo di uso anche civile rispetto al mercato. Poi mi domanda un ascoltatore le cinture esplosive e si interroga sul fatto delle cinture esplosive, però visto, è venuto fuori un dato, gli italiani si stanno chiedendo e domandando se nel caso fosse mai necessario come trovarsi un'arma. Beh, dalle rapine in villa a questi fenomeni terroristici che qualcuno forse inopinatamente già definisse guerra, se ci pensiamo ci sono paesi che vivono le Parigi di venerdì scorso quasi tutte le settimane, penso a Israele o anche ai paesi dove si combatte, penso agli attentati in Iraq, in questi paesi, ma queste percezioni di insicurezza ovviamente determinano poi una reazione istintiva di ognuno di noi di cercare forme di protezione e il reperimento di un'arma. Ma la capacità di sapere se mi serve dove trovarla fa parte di queste forme di difesa. Le armi da guerra sono una parte molto limitata del mercato clandestino. In Francia stimano forza di polizia che siano circa il 5% e sono rivolte ovviamente a un pubblico d'élite che è pronto a pagare di più, che ha bisogno di armi da guerra come i fucili Kalashnikov, armi che hanno una capacità perforante, capacità d'arresto molto forte, addirittura qualcosa di più come i lanciarazzi e gli RPG, che anche quelli sono abbastanza facilmente reperibili, facilmente tra virgolette, in quel mercato a prezzi eccessivi provenienti dai Balcani. Le cinture esplosive, non ci dobbiamo dimenticare che gli uomini che usano queste armi a Parigi, che le hanno usate a Parigi, che le usano per il terrorismo, non sono criminali che hanno ricevuto quest'arma e la usano per fare una rapina, sono uomini che sono stati ideologizzati magari in Europa, sono andati in Siria, in Yemen ad addestrarsi in campi di addestramento facendo quello che facevano nei campi libici di Gheddafi i terroristi europei degli anni 70, le Brigate Rosse, l'Ira irlandese, andavano ad addestrarsi all'uso di armi da guerra nei campi di addestramento in Libia, e loro lo fanno oggi in Siria o in Yemen o in Afghanistan. Quindi la costruzione della cintura fa parte dell'addestramento. Nell'addestramento basico del guerrigliero, del leader, del combattente dell'ISIS c'è l'uso delle armi individuali, c'è l'uso delle armi di squadra, la mitragliatrice, e c'è l'uso degli esplosivi, quindi confezionare cinture esplosive, confezionare ordigni esplosivi improvvisati, cioè usare l'esplosivo di una granata d'artiglieria come fanno i talebani in Afghanistan e trasformarlo in una mina che poi esplode al passaggio di un Le bombe allo stadio di Parigi erano piene di bulloni, che è una tecnica tipica del terrorismo per rendere ancora più devastante in mezzo a una folla il potere di una bomba. Quella fa parte della tradizione militare delle cariche per colpire la fanteria, venne usata da Baba Beccaris a Milano, certo. Vennero usate a Waterloo contro la cavalleria che avanzava, cioè spari un proiettile, in realtà riempi l'arma di pezzi di bulloni, di pezzi di metallo che sparando a raffica potranno decimare o ferire o uccidere moltissime persone. Sono le famose cariche a mitraglia, insomma. Quindi chiunque voglia fare il massimo del danno su obiettivi non protetti, e degli avventori di un bar sono ovviamente non protetti, questo tipo di esplosivo è devastante, come sono anche, diciamo, sarebbe anche il ferito dilaniato in maniera orribile ha un potere deterrente molto più forte del morto in certi casi, e occupa spazio, impedisce i soccorsi, crea problemi, e poi in molti casi è destinato a morire poche ore dopo. In questo comunque l'obiettivo è raggiunto. Sì. Allora Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. La sto ascoltando. Io volevo dire che con il fatto delle armi ci sei sempre stato. All'epoca, quando c'era il contrabbando, no? Di sigarette, andavamo noi con gli scafi, con tante, un paio di persone a bordo, con i soldi. Vecchia scuola, insomma. Sì, vecchia scuola. E nel frattempo, se non c'erano le sigarette che arrivavano dalla Polonia, aspettavamo lì in Jugoslavia. E eravamo in discoteca, no? E di là si conosceva certa gente che le vendeva, no? Kalashnikov, pistole, quelle che volete, a poco prezzo. Più o meno che posto era esattamente? Dove andate a prendere le sigarette? Montenegro? Montenegro, sì, Montenegro. Quindi vi offrivano Montenegro. Anche le armi, che anno era più o meno? Passate nel 75. Ah, 78. Ma sta parlando di una vita fa, ancora c'era ancora, pensi, ancora era stabile il blocco dell'est. Ma allora c'erano tutte queste cose. C'era Tito ancora. Adesso state vedendo voi, ma noi eravamo già a corrente di queste cose. Quindi già dai tempi di Tito, se non voleva andava in Montenegro, poteva comprarsi le armi, gliele offrivano. Anche un bunker armato, se volevi. Tutti tutto, perché passavano dai balcanici, tornavano in Albania, queste cose qua, no? Quello che volevi, allora si pagava molto di meno, adesso costano di più. Va bene, la ringrazio. Daniel, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo dire che la nostra speranza è che questa gente continui a cercare armi, esplosivo militare, che nella sostanza possono essere possono lasciare tracce, l'intelligence può usare queste tracce per arrivare a qualche conclusione. Nel momento in cui il terrorismo prenderà altre strade diventerà impossibile agire. E quali potrebbero essere altre strade, per capire l'alternativa? No, io le altre strade, no, io dico, se vuole gliele dico. Se le fanno da, dice Gagliani, esplosivo fatto in casa, questo lei. No, voi siete sempre sulla strategia di qualcosa che scoppia, qualcosa che spara, non serve. Io, se vuole, poi le dico a microfoni spenti come si fa a mettere in ginocchio una nazione con 40 persone. Lo dica adesso a microfoni aperti, dopo non mi interessa. No, io a microfoni accesi, no, io lo dico perché poi se capitasse mai qualcosa mi viene ancora il dubbio che sia stato io. Vabbè, mi faccia capire il quadro, però. Il quadro vuol in cui... dire che non servono le armi, gli esplosivi per piegare una nazione voluta, servono altri sistemi, sono molto più efficaci. Queste qua, in realtà, loro vogliono spaventare la gente, ma non vogliono mettere in ginocchio la nazione. Nel momento in cui il terrorismo farà il salto evolutivo e veramente vorranno metterci in ginocchio, non avranno bisogno di andare a comprare il Kalashnikov in Montenegro. Non cioè serve. Avvelenano gli acquedotti, queste cose qua. No, lei è sempre su delle cose rintracciabili. No? Lei deve andare. Gagliani le fa una domanda. Forse si riferisce agli attacchi informatici che paralizzano le reti che gestiscono anche i servizi. Lì, anche lì siete sempre nell'evoluzione. Allora ce lo dica, però, perché ci lascia la sua. Io guardi, con lei, se vuole, il mio numero, mi chiami, io mi microfono spento e le dico. Con 20 persone io metto in ginocchio l'Italia con 20 persone senza usare un sistema che sia rintracciabile dall'intelligence, lasciando perdere l'informatica, lasciando perdere i veleni, lasciando perdere le armi, lasciando perdere le bombe. Purtroppo questo sarà il salto evolutivo. Quando arriveremo lì saremo obbligati a fare la guerra con i militari e andargli a togliere uno per uno dalle case laggiù, perché saremo in ginocchio. Vabbè, Daniel, è una persona... Mi chiama, io a microfoni spenti le dico le cose. Sì, ma io faccio giornalista, non esiste per me il microfono spento. Se me lo dice io poi lo scrivo, quindi tanto vale che me lo dice adesso, se vuole. No, io lo dico, non me lo farete dire mai sotto tortura. Vabbè, sì. Se vuole, però microfoni spenti ne possiamo. Di solito chi fa queste cose non lo dice, né microfoni spenti e microfoni accesi, questo mi dà ancora speranza. Matteo, buongiorno. Sì, Matteo. Pronto, buongiorno Nicoletti, salve a tutti i radioascoltatori. Sì. Guardi, io volevo farle un appunto sull'argomento di oggi, nel senso che, per carità, uno la prima cosa che pensa in questi episodi è chiedersi dove trova le armi una persona con questa fragilità. Ma secondo me il problema, Nicoletti, è un altro, nel senso, ho sentito tutti i radioascoltatori, chi dice che li trova a destra, chi a manca, insomma c'è una certa fragilità nel reperire le armi in Italia piuttosto che all'estero. Basti l'esempio dell'ultimo episodio successo qua vicino a noi in Ancona, dove un ragazzo di 18 anni insomma è entrato in possesso di un'arma e poi ha fatto fuori la mamma della fidanzata e il padre in fin di vita, insomma, questo quindi... mi dà ragione però sul fatto che, se vuole uno, se si ingegna, segue delle vie, diciamo, un po' per intuito, un po' per conoscenza, sì, la trova, se vuole, una pistola. Sì, sì, assolutamente, questo è fuori discussione, guardi, però le dico, secondo me l'attenzione va spostata altrove, il riferimento ai fatti di Parigi, perché qui, signori, ci troviamo di fronte a un'organizzazione militare, questa non è un attentato fatto da quattro disperati che vanno in giro e che riescono a procurarsi. Ma nessuno dice sono quattro disperati, sono quattro disperati, però la struttura stessa di questo tipo di organizzazione è una struttura che fa sì che delle cellule si possano, una volta addestrate, una volta avendo gli strumenti, organizzare anche da sole, perché il contatto molte volte avviene via sistemi telematici, da Twitter arriva l'ordine di agire, non occorre vanno una persona nella cantina buia col cappuccio e dice cosa devi fare, che poi queste sono persone addestrate, è un dato di fatto, non basta comprarsi il Kalashnikov nel campo nomadi, come dice il nostro ascoltatore, e fa qualcosa del genere, Gagliani. Sì, infatti quello che stavamo dicendo prima, tu formi ideologicamente delle persone anche in una moschea europea, poi la mandi a fare addestramento laggiù, dove lo fai combattere qualche mese, perché uccidere non è una cosa automatica. Li fai anche ammazzare. Devi imparare ad uccidere, anche a giustiziare i prigionieri. Noi sappiamo che l'ISIS fa un grande show quando giustizia i prigionieri catturati. Quando sei pronto a uccidere, sei abituato ad uccidere, lo fai quasi con piacere, sei pronto a tornare e affrontare anche un attentato suicida, perché ideologicamente sei già condizionato, sai usare le armi e gli esplosivi. A quel punto, quando sei rientrato in Europa, i canali che ti forniscono di armi ti fanno arrivare quanto serve e sei pronto a entrare in azione anche con un preavviso rapidissimo, perché a parte lo stadio, che era un obiettivo difficile e sensibile, infatti non sono riusciti a penetrare, gli altri obiettivi erano facilmente penetrabili per chiunque avesse delle armi da guerra addirittura. Quindi, però attenzione, noi abbiamo la memoria corta, ci dimentichiamo Atocha 2004, le stazioni di Madrid fatte esplodere da Al Qaeda, quasi 200 morti, e anche in quel caso l'obiettivo non era un obiettivo sensibile o politico, ma erano le persone che andavano a lavorare. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. .00240024, stiamo parlando del mercato delle armi, il mercato delle armi interno, delle armi da guerra, delle armi che possono tranquillamente essere anche utili per compiere attentati tipo quelli di Parigi, che però, come abbiamo già detto il nostro ospite, richiedono comunque un apparato di preparazione militare alle spalle, soprattutto di preparazione psicologica, ideologica. Essere pronti a uccidere, non basta avere un'arma per essere capaci di fare una strage. Se non ho mai ucciso, è difficile che sia capace di avere la freddezza in quel momento di uccidere esseri umani. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo porvi un'informazione, quantomeno, sull'esistenza di quello che è il Deep Web, ovvero di una parte dell'internet che non è possibile raggiungere. La parte oscura della rete. Sì, però ritengo che sia importantissima sia per il processo di comunicazione, sia per il processo di reclutamento e per il fatto di trovare delle armi, perché è difficilmente, molto difficilmente tracciabile, quindi come tale elude tanti tipi di controlli, e per accedervi basta veramente il peggior computer, il peggior cellulare e ti trovi davanti. Ma lei ne ha esperienza o per sentito dire? Io ho verificato di persona. Entrare è facile, poi chiaramente esiste il problema all'interno del Deep Web è avere un motore di ricerca che sia affidabile, però si trovano di quelle cose che... Lei cosa ha visto, ad esempio, nella sua escursione? Io ho visto, ma non direttamente, ma su altri siti del Deep Web che lo riportano, perché la sua struttura è molto malleabile, quindi come tale cambia in continuazione giorno dopo giorno, un sito magari oggi è raggiungibile, domani non è più raggiungibile, si trovano siti internet dove è possibile reperire droga, armi, eccetera. E quindi, insomma, E le armi poi cosa fanno? Uno le compra con Bitcoin e poi ti arrivano a casa, come funziona? Ah, questo, guardi, di questo non ho esperienza, per fortuna, perché non mi sono, insomma, si arriva ad un punto dove l'informazione fa paura, ecco. Quindi preferirei meglio non metterci le mani, perché uno lascia traccia anche del suo passaggio, questo è chiaro. Claudio, buongiorno. Buongiorno signor Coletti, senta, quanto riguarda le armi in Italia, io mi sembra un po' di tabù assurdi. Io se prendo un porto d'armi con un permesso di caccia, per la semplice caccia, gli animali, non è detto che devo comprare, ho diritto ad avere fino a 3 armi, no? In casa di possesso. Posso comprare anche un Kalashnikov, non è che devo... Beh, no, militare non lo può comprare, lo può comprare ricalibrato con un calibro possibile, ma che ci fa? Ci spara le allodole perché ci fa un attentato, c'è la sua firma. No, magari queste persone ci sparano qualche cos'altro che non sono allodole. Sì, ma non è che per fare un attentato non si prende l'arma col porto d'armi in armeria, mi sembra. Ma per dire, ma il problema dell'autodifesa in Italia non è che... Ma qua stiamo parlando di attacchi terroristici, c'è un'altra trasmissione. Ha sbagliato trasmissione, scusi, Gianandrea Gaiani. No, sì, ne parlavamo prima, no? La percezione di insicurezza può far aumentare la richiesta anche su mercati paralleli da parte di persone normali, non di criminali, di armi per l'autodifesa. Però noi stiamo parlando del traffico di armi che in Europa alimenta cellule terroristiche che usano armi da guerra ed esplosivi per compiere azioni terroristiche. Il link può esserci con la criminalità organizzata, come dicevamo all'inizio della trasmissione, perché questo tipo di armi è stato utilizzato in alcune occasioni dalla criminalità organizzata per colpire, io penso alla strage di Capaci fatta con esplosivo, ma anche per fare le rapine ai furgoni portavalori, che sono obiettivi protetti e che richiedono quindi armi con una capacità perforante superiore a quella che... Il problema vero in un confronto urbano ed emerso nel caso parigino con i fratelli Quassi è che i poliziotti che sul momento vennero chiamati a intervenire, che erano agenti di strada, avevano armi molto meno potenti di quelle imbracciate dai terroristi. Quando poi si è mobilitato alle forze speciali, forze di pronto intervento, allora la polizia aveva armi adeguate, ma nel confronto improvviso per strada fra la gente che fa pattuglia di quartiere e questi terroristi, la potenza di fuoco e anche il volume di fuoco che i terroristi potevano esprimere era molto superiore a quella dei poliziotti. Mi viene a pensare cosa potrebbe accadere alle nostre latitudini con le vigilanti, le guardie giurate, le persone che stanno lì, che magari hanno nemmeno un addestramento basilare per l'arma che portano. Pensiamo a casa. Pensiamo però paradossalmente, per estensione, se un'azione come quella di Parigi avessero provato a farla a Houston o a Dallas, città del Texas, stato degli Stati Uniti, dove la diffusione di armi pro capite è maggiore, probabilmente alcuni degli avventori del bar o della discoteca avrebbero abbattuto i terroristi con le loro armi che tenevano in tasca prima che intervenisse la polizia. Trovato un avventore con la Desert Eagle che la tirava fuori magari. Magnum in grado di... Grazie Gianandrea Gaiani, abbiamo fatto un primo scandaglio, visto che gli italiani comunque hanno fatto un pensierino, sanno comunque, volendo e muovendosi, dove andare a cercarsi le armi, e questo già è un punto rispetto a quello che sapevamo prima. Alla prossima.